Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Come ogni anno, in questo periodo in Europa si parla di mobilità e di sostenibilità. Dal 16 al 22 settembre si svolge infatti la Settimana Europea della Mobilità, istituita dalla Commissione Europea nel 2002 per promuovere una mobilità sempre più sostenibile ed efficiente attraverso iniziative che interessano istituzioni, associazioni, enti locali, amministrazioni comunali e soprattutto i cittadini. Alla European Mobility Week aderiscono quest'anno circa 1.600 partecipanti da tutto il mondo, chiamati a confrontarsi sulle soluzioni più innovative per ridurre le emissioni nocive e sull'utilizzo dei mezzi di trasporto alternativi all'automobile, ma anche sulla sicurezza. Altro tema al centro delle politiche comunitarie è infatti quello della sicurezza sulle strade. Il 21 settembre sarà dedicato alla campagna Edward, promossa dal Network Europeo delle Polizie Stradali Trispol, all'interno della stessa Settimana Europea della Mobilità. Edward sta per A European Day Without a Road Debt e ha l'obiettivo di scongiurare, almeno per questa giornata, nuove vittime sulla strada. Per questa ragione, la Polizia Stradale predisporrà dei controlli su tutto il territorio nazionale, accompagnati da iniziative volte alla sensibilizzazione e alla prevenzione. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E come avete ascoltato dalla nostra scheda iniziale, siamo in piena settimana europea della mobilità. Tante le iniziative per parlare di mobilità sostenibile, ma anche di sicurezza stradale. E c'è una data, il 21 settembre, fra qualche giorno, quindi la prossima settimana, che è una data importante, perché l'Europa ha deciso che in quella data non ci devono essere vittime sulle strade. Ovviamente un obiettivo simbolico, tutti noi ci aspettiamo almeno una riduzione importante rispetto alla media giornaliera, ad esempio, dello scorso anno. Però è un impegno importante promosso dal Network Europeo delle Polizie Stradali, Trispol. Ne parliamo oggi in compagnia del nostro ospite, che è Paolo Cestra, dirigente della Polizia Stradale, ma soprattutto dal prossimo 1 ottobre presidente di Trispol. Innanzitutto, Cestra, che cos'è Trispol? Ce lo può spiegare? Sì, innanzitutto un saluto a tutti i radioascoltatori e in particolare a chi in questo momento ci sta ascoltando alla guida. Trispol è il Network Europeo delle Polizie Stradali, quindi una organizzazione nata nel 1996 sotto l'egida dell'Unione Europea, alla quale aderiscono in questo momento tutti i paesi dell'Unione, quindi anche la Gran Bretagna ancora e in più la Svizzera, la Norvegia e con un particolare status di osservatore la Serbia. È un'organizzazione che in realtà vuole essere una rete di cooperazione tra tutte le polizie stradali proprio per raggiungere con più efficacia quelli che sono gli obiettivi primari della sicurezza stradale che, come sappiamo, sono poi stati ribaditi proprio dall'Unione Europea con la previsione nel periodo dal 2010 al 2020 del dimezzamento del numero di morti sulla strada. Ecco, quindi fra le varie polizie stradali europee c'è una sorta di dialogo, vi scambiate dati, informazioni o addirittura credo abbiate una banca dati in comune grazie alla quale verificare la posizione delle persone o dei veicoli fermati. Esattamente ciò che facciamo, ci scambiamo informazioni. Questo network nasce proprio come un qualcosa finalizzato allo scambio immediato delle informazioni, non tanto in materia di cooperazione, di polizia giudiziaria, perché qui ci sono i canali ufficiali ai quali partecipano tutti gli Stati membri, ma soprattutto informazioni riguardo quali sono le attività che vengono svolte, quali sono le tipologie dei controlli, quali sono gli strumenti utilizzati e anche la possibilità di finalizzare le attività soprattutto di prevenzione a nei confronti di determinate violazioni e farlo tutti quanti assieme. Uno dei punti di forza di Tispol è quello di organizzare praticamente ogni mese, ad esclusione dei mesi estivi, una settimana in cui tutte le polizie aderenti, le polizie stradali aderenti al network, svolgono una operazione su un tema specifico. Si è da poco conclusa quella relativa alla velocità, l'operazione Speed, un'intera settimana in tutti i paesi che volontariamente vogliono aderire tra quelli che partecipano all'organizzazione, finalizzata proprio al contrasto di determinate violazioni che sono quelle che risultano essere maggiormente gravi poi per la sicurezza stradale. Parliamo di eccesso di velocità, parliamo di guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche e stupefacenti, parliamo di controllo del rispetto delle regole sociali nell'autotrasporto, quindi dei tempi di guida e di riposo, parliamo dell'utilizzo corretto delle cinture di sicurezza e anche del corretto utilizzo del telefonino durante la guida. Torniamo alla nostra settimana della mobilità sostenibile. Sostenibilità e sicurezza, è evidente, sono un binomio particolarmente forte, tant'è vero che all'interno della settimana della mobilità sostenibile è stata inserita questa giornata speciale dedicata alla sicurezza, con un obiettivo ambizioso, dicevamo, quello di zero vittime sulla strada. È un obiettivo perseguibile secondo lei? L'operazione, la giornata appunto è quella del 21 settembre, il nome della campagna Edward è un acronimo inglese, sta per European Day Without Road Death, quindi giornata europea senza morti sulla strada. L'obiettivo è zero vittime in quelle 24 ore sulle strade. È un obiettivo sicuramente ambiziosissimo, direi che forse potremmo mirare magari ad una forte un po' meno riduzione. Di ambizione ad abbattere un po' di più il numero per quella giornata. Ecco, quali saranno le attività, nello specifico in Italia, nel corso di questa giornata del 21 settembre? Allora, innanzitutto c'è da dire che durante questa operazione la Polizia Stradale predisporrà sull'intero territorio nazionale dei servizi mirati volti proprio al contrasto e quindi alla riduzione delle principali cause di incidentalità. Abbiamo detto, sono individuabili nell'elevata velocità, nel mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza, nel non corretto uso dei telefoni cellulari alla guida, nel mettersi alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche o peggio ancora stupefacenti, e soprattutto, questo è molto importante, parallelamente verranno svolte un insieme di iniziative di prevenzione e di sensibilizzazione rivolte alla collettività e mirate appunto in sede locale a secondo delle diverse sensibilità che poi nelle diverse città, nelle diverse province d'Italia ci sono. Certo, parlavamo prima, tra le varie attività messe in campo da Tispol su base europea, anche di attività legate al mondo dell'autotrasporto. Ovviamente è un settore che noi seguiamo con particolare attenzione. Quali sono le criticità che sono emerse all'interno di questo settore? Lei per esempio parlava prima di problematiche legate ai tempi di guida e di riposo. Sicuramente c'è da dire non solamente Tispol, l'intera struttura europea, la Commissione europea, la DG Move della Commissione e anche poi gli organi nazionali, primi tra tutti il Ministero dei Trasporti e il Ministero dell'Interno, con la Polizia Stradale in particolare, hanno un occhio di riguardo per quella che è la sicurezza dell'autotrasporto. In genere, sicurezza che non ci stanchiamo mai di ribadire è legata al fattore umano soprattutto, cioè noi parliamo di sicurezza per chi è un trasportatore di professione, quindi per chi poi della vita su strada, su gomma fa la propria professione, sicurezza ovviamente anche dei veicoli. Cosa si riscontra in ambito europeo? Da qualche anno a questa parte fortunatamente c'è stata un'armonizzazione delle regole, quindi il quadro d'insieme è più semplice da seguire, restano ovviamente, ma non potrebbe essere altrimenti perché esiste una sovranità nazionale, grandi differenze di sanzioni per le quali però l'Unione Europea sta cercando di trovare anche in questo caso, perlomeno a livello generale, dei punti comuni per evitare ad esempio che una sanzione che in un paese possa risultare gravissima in un altro sia a dir poco veniale, si riscontra ancora in alcune realtà, soprattutto in alcune realtà di regioni di particolare traffico di mezzi pesanti, mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo, mentre gli eccessi velocitari commessi dai conducenti professionali stanno leggermente scendendo statisticamente. Bene, termina qui anche questa puntata di Container. Prima di lasciarci vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. E vi ricordo anche il nostro indirizzo email, che è container@radio24.it. La nostra trasmissione ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.